Abbiamo al telefono la professoressa Maria Grazia Breda, che è presidente della Fondazione per la Promozione Sociale di Torino, e con lei vogliamo parlare di un problema grave che riguarda una parte invisibile della nostra società, perché viene molto spesso riassunta dietro le porte di casa, ma è un problema gravissimo, quello della non autosufficienza, con alcune novità che si avanzano anche sul terreno legislativo. Di cosa stiamo parlando, professoressa Breda? Stiamo parlando del disegno di legge delega che è stato approvato come ultimo atto del governo Draghi e poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio Meloni, che lo ha approvato con pochissime modifiche non significative. Il testo è rimasto praticamente intatto ed è grave perché un testo che l'obiettivo di spostare nel campo dell'assistenza, dove non ci sono diritti esigibili e ci sono sempre scarsissime risorse, una quota consistente di malati cronici, soprattutto anziani, persone con demenza o con Alzheimer, per cui siamo preoccupatissimi, perché l'altro elemento che nelle tante cose che si raccontano come una grande narrazione che porta a dire ma come sono bravi, quante cose belle fanno per gli anziani non autosufficienti, in realtà, togliendo tutta la parte di narrazione, viene fuori che, non essendoci risorse nel campo delle politiche sociali per coprire almeno 1,5 milioni di anziani malati non autosufficienti, che oggi come oggi sono in grandissima parte a carico dei familiari, anche se hanno diritti a ricevere prestazioni dal servizio sanitario, bene, per questi malati che oggi contano solo su un'indennità di accompagnamento, che è un diritto esigibile proprio per chi dipende in tutto e per tutto per le funzioni vitali, verrà invece spostata nell'ambito appunto dell'assistenza, e per l'accedere all'assistenza tutti quelli che hanno avuto esperienza sanno che verrà considerata la situazione economica e sociale, quindi si valuterà in base all'ISE e andranno avanti, quindi riceveranno eventuali contributi che saranno dati soltanto in base alla situazione di chi ovviamente è meno abbiente. Quindi viene scartata, perché questo è il termine giusto, su una base sbagliata, tutta una fascia di popolazione che è malata, gravemente malata, al punto che dipende in tutto e per tutto dall'aiuto di un'altra persona, e va ad intaccare ulteriormente le risorse dei nuclei familiari, soprattutto del ceto medio-medio-basso, che è già stato indicato come un ceto a rischio proprio di grave impoverimento a questo punto, e che viene indotto a stipulare assicurazioni. Infatti chi spinge per questo disegno di legge sono assicurazioni, datori di lavoro, delle cose, delle badanti, sono le associazioni dei medici ospedalieri, perché vogliono ovviamente escludere dal servizio sanitario prima possibile questi malati, convinti che i comuni sono quelli che garantiscono le politiche sociali, abbiano poi le risorse per garantire gli aiuti di cui queste persone hanno necessità. Ecco, queste persone, ricordiamo, sono malattie e patologie come l'Alzheimer, le malattie degenerative, insomma persone che... Parkinson, persone che hanno 3-4 patologie insieme, ecco, per cui sono sempre scompensati, perché mentre si stabilizza una patologia l'altra salta, e quindi sono persone che infatti sulla base della normativa nazionale, quindi la legge 833 del 78 e i LEA, i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, hanno diritto a stare in sanità, perché la sanità è vero che non ti cura sempre solo in ospedale, ma ti dà la garanzia di poter essere curato in altri percorsi. Una volta superata la fase acuta, hai diritto ad avere la riabilitazione se necessaria, alla lungodegenza, a un percorso ancora di cure intermedie, in attesa di avere il rientro al domicilio quando ci sono familiari disponibili in grado di sostenere anche quello che significa la presa in carico di un malato in queste condizioni, sovente allettato, comunque con una mobilizzazione molto molto limitata, che deve essere comunque sorvegliato 24 ore su 24 e che quindi ha necessità anche di avere appunto degli aiuti economici da parte della sanità per permettergli di poter anche acquistare sul mercato la aiuto necessario, perché se c'è anche la presenza di un familiare non può stare 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Il problema di oggi è che non si riconosce che si tratta di malati gravissimi, e che perché proprio gravissimi sono sì inguaribili, ma sono sempre curabili, anche per non finire appunto malamente i propri giorni, e quindi la sanità non li può scaricare, perché possono avere anche delle ricadute, e se sono dentro una presa in carico dell'ASL, se sta male, c'è una presa in carico che mi può portare nel percorso di cura in cui ho diritto ad avere delle cure maggiori di quelle che ricevo a casa. Posso anche ritornare a casa se però appunto ho l'aiuto magari necessario che mi viene mandato dall'ASL per garantire prestazioni che non può certo né garantire il familiare né la badante. Ecco, quindi questo è il percorso su cui noi stiamo appunto insistendo da tempo, e questo brutto disegno di legge purtroppo, per scardinare questo impianto normativo che bisognava invece potenziare e far funzionare, fa che inventare un sistema nazionale per l'assistenza degli anziani, quindi si cambia tutto proprio per togliere i diritti che altrimenti non si potrebbero togliere. Professoressa Maria Grazia Breda, che è presidente della Fondazione per la Promozione Sociale di Torino. Siamo di fronte, parlando di welfare, a una privatizzazione pesante della sanità, e senza questi aiuti è valutabile quanto può costare una famiglia, appunto, tempo che se la faccia? Il problema già oggi, sono ricerche del Censis ufficiali, si parlava di oltre 9 miliardi di spesa a carico delle famiglie per garantirsi un aiuto, un appoggio per l'accudimento di un malato cronico non autosufficiente, e in questo momento possono contare un po' sulle pensioni e un po' sull'indennità di accompagnamento. Domani, se passa questo disegno di legge, l'indennità di accompagnamento finirà nel calderone dell'assistenza, dove nel testo di legge per ben 9 volte viene ripetuto che tutto sarà fatto solo con le risorse disponibili a legislazione vigente, che sono pochissime. E faccio un esempio: nel 2021, che sono gli ultimi dati che abbiamo, il servizio sanitario aveva a disposizione 127 miliardi e oltre 380 milioni, le politiche sociali ne avevano 580 milioni in tutto. Quindi c'è un abisso tra le risorse del servizio sanitario e quelle delle politiche sociali, perché giustamente la Costituzione dice: io aiuto i poveri che sono veramente poveri, e quindi è una fetta che deve essere minima, mentre invece il servizio sanitario deve garantire tutta la popolazione. Si parla molto dei famosi LEA, i livelli essenziali delle prestazioni, esatto, sanitarie e sociosanitarie, ma è più una chimera che in realtà. Per gli anziani malati cronici, questo lo dico perché se ci sente qualcuno lo deve sapere, riusciamo ad ottenere la prestazione LEA, ma soltanto se attraverso il ricovero in ospedale per un aggravamento, la persona poi viene proposto una dimissione ma non può rientrare al domicilio, ebbene deve sapere che ha il diritto ad opporsi alla dimissione, a chiedere la continuità delle cure a carico del servizio sanitario, che può attivare percorsi di cure riabilitative o di lungo degenza, cure intermedie, fino a quando può o rientrare al domicilio, se per la famiglia è sufficiente quello che il comune o l'ASL fornirà, ma se la famiglia non è più in grado di sostenere la cura che ne necessita, perché si è aggravato al punto che non è più gestibile al domicilio, la persona ha diritto a restare restare sotto la copertura del servizio sanitario fino a quando l'ASL di residenza garantisce la convenzione in una struttura residenziale sociosanitaria. Questo è il LEA che riusciamo a garantire. Il dramma è che da casa, se uno parte da casa e dice no, io preferisco, sono in grado, voglio ancora accudire mia madre malata di Alzheimer che non è ancora tanto grave, che ancora mi riconosce, però avrei bisogno di un aiuto economico per farmi aiutare e sostenere appunto tutto il peso che comporta l'accudimento, ecco, in quel caso lì non viene riconosciuto nulla, viene riconosciuto un contributo solo dai comuni ma non dal servizio sanitario, e quindi i comuni intervengono solo quando c'è una situazione di povertà e di isolamento sociale, quindi una scarsa rete familiare, la persona è sola e non ci sono ovviamente redditi e beni appunto che ritengono sufficienti perché possa aggiustarsi da sola. Le cose dipendono anche dalle casse del comune, che ultimamente non sono tempi di vacche grasse, per usare una metafora. Ma i comuni non lo sono mai, perché è la Costituzione stessa che lo dice, la Corte Costituzionale si è pronunciata proprio nel 2020 dicendo molto chiaro che i LEA devono essere finanziati e non ci sono santi, bisogna cercare le risorse, se non sono disponibili nel servizio sanitario, dentro lo Stato, quindi si risparmia sulle spese inutili, ma il servizio sanitario deve essere finanziato, e il Covid è un esempio, perché abbiamo finanziato subito con miliardi il servizio sanitario perché serviva appunto coprire le cure, quindi lì ha dimostrato che la Costituzione funziona, e l'articolo 32 anche. L'articolo 38 invece si interviene solo compatibilmente con le risorse disponibili e nei confronti di chi è inabile e sprovvisto dei mezzi necessari, cioè interveniamo in aggiunta, per cui se io sono un malato cronico non autosufficiente, prima devo avere l'aiuto da parte del servizio sanitario e poi se sono anche povero andrò a chiedere l'intervento del comune, cosa che funziona sempre, come vi dicevo prima, per le strutture residenziali sociosanitarie, cioè se io vado in una RSA, in una struttura sociosanitaria con altro nome, comunque accreditata col servizio sanitario per anziani malati non autosufficienti, la sanità mi paga il 50% della retta, indipendentemente dall'ISE e dalla situazione economica. L'altro 50% lo paga l'interessato, se non ce la fa interviene il comune di residenza. Quindi la situazione dovrebbe essere uguale e prioritariamente aiutata e favorita a casa, perché c'è ancora una grossa disponibilità da parte delle famiglie a farsi carico finora, ecco, però poi tra 20 anni non lo sappiamo, ma in questo momento qui la disponibilità c'è, ma sono lasciate da sole. La preoccupazione è che l'istituzione di questo sistema di assistenza nazionale per gli anziani significa postare proprio in un ghetto, fuori dal percorso del servizio sanitario, tutte le persone che, cominciamo con gli anziani, ma poi come va a finire ogni volta che si approvano queste leggi, passa poi a tutti quelli che si trovano in condizioni similari. Il passo è semplice, lo vediamo anche con i malati psichiatrici, come arrivano intorno ai 60 anni e già le strutture psichiatriche li dichiarano persone con problemi geriatrici perché e non li vogliono più nelle case di comunità o nelle comunità alloggio, insomma. Quindi fanno fare l'unità valutativa geriatrica per trasferirli perché è un problema di soldi. Perché la struttura sociosanitaria, se sei classificato come anziano, costa meno rispetto al gruppo appartamento o alla comunità familiare psichiatrica. È sempre bisogno di soldi alla fine, brutale. Ah sì, è sempre di soldi. Infatti ci sono anche le persone con disabilità fisica che hanno detto ah, ma noi siamo contenti perché comunque c'è scritto che se compiamo 65 anni possiamo scegliere, ma è una scelta che noi vediamo già adesso, perché tanto questo principio era già scritto nella legge sul dopo di noi, ma il principio viene scavalcato perché nel momento in cui la persona con disabilità fisica ma anche intellettiva finisce in ospedale perché ha un ictus o un infarto, perché gli capita anche a loro, Ecco, non è più classificato come persona con disabilità, viene classificato come persona anziana, malata non autosufficiente, e quindi finisce anche lui nel calderone di questo sistema per gli anziani, che poi non sono neanche definiti, per cui è anche illegittima questa situazione, perché si parla di anziani non autosufficienti e volutamente, furbescamente direi, non si mette mai la parola malati non autosufficienti, perché in questo modo si toglie lo status di malattia e quindi la competenza del servizio sanitario. Io so che siete mobilitati, c'è questa petizione che sì. Come si fa, ecco, cos'è e come si fa ad aderire? Allora, la petizione è proprio per poter sollecitare e anche informare, perché bisogna anche fare controinformazione, perché c'è una grossa cordata che fa propaganda positiva rispetto a questo DDL, dicendo che c'è la soluzione per il problema della non autosufficienza, quindi racconta anche falsità e bugie alle persone, illudendoli rispetto alle cose che sono poi realmente scritte. Il problema è che nessuno va a leggere il testo, tutti si fidano appunto di che cosa viene raccontato, credono di più alle cose che gli fanno piacere piuttosto che a scontrarsi con la realtà. La petizione è recuperabile su change.org, il titolo è DDL non autosufficienza, intervenire sul DDL a tutela dei non autosufficienti. Fermiamo il DDL per la non autosufficienza, abbiamo già raccolto oltre 3.000 firme in pochi giorni, vogliamo arrivare a 5.000 perché si ha più la probabilità di raggiungere poi l'attenzione anche ovviamente delle istituzioni, perché quello è l'obiettivo.